Il rivaleggiare. Meccana, numero 16, di 8 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto numero 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Il rivaleggiare vi distrarrà. Finché visiterete le tombe. Invece no, ben presto saprete. E ancora no, ben presto saprete. No, se solo sapeste con certezza. Vedrete certamente la fornace. Lo vedrete con l'occhio della certezza. Quindi in quel giorno sarete interrogati sulla delizia.